Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Standing at the machine every day for all my life. I used to do it and I need it. It's the only thing I want is just to rush. Push. Cash. Venerdì 29 aprile 1994, Imola. È in corso la prima sessione di prove del Gran Premio di San Marino, terza gara del campionato del mondo di Formula 1. Mentre Ayrton Senna e Michael Schumacher si sfidano a colpi di giri veloci, a caccia della pole position, alla variante bassa, una delle curve più tecniche del circuito, Rubens Barrichello tiene col fiato sospeso il mondo. La sua Jordan entra troppo veloce in curva, sbanda alla staccata, urta il cordolo, decolla. L'auto impatta violentemente contro le barriere, plana al suolo, si ribalta più volte. In un attimo tutto sembra fermarsi. Si teme il peggio. Mi ricordo solo di aver imprecato o qualcosa di simile. E dopo essermi schiantato, la mia memoria si è come fermata. Non ricordo nulla dell'incidente. Ricordo quell'attimo prima e poi il nulla. Tutto quel weekend è ancora qualcosa di molto vago nella mia mente. I soccorsi sono tempestivi. Il pilota brasiliano viene immediatamente trasportato all'ospedale maggiore di Bologna, dove gli viene diagnosticata una semplice frattura del setto nasale e una costola incrinata. Penso di essere stato davvero fortunato, perché rivedendo l'incidente, la violenza dell'impatto, è davvero impressionante. La motivazione di quell'incidente è l'unica cosa che ricordo, e cioè il fatto di essere entrato in curva troppo veloce. Barrichello è incredibilmente salvo. È un miracolo, un regalo insperato del destino. In realtà è solo l'atroce antipasto di una delle pagine più nere della storia dello sport. Seconda sessione delle qualifiche ufficiali. Ayrton Senna, che dopo l'incidente del connazionale amico Barrichello aveva abbandonato le qualifiche per raggiungerlo in ospedale, è ancora in pole position. I tentativi di strappargliela da parte di Michael Schumacher e del compagno di squadra Damon Hill sembrano vani. Lontano dai supercampioni, si combatte una battaglia diversa. Nelle retrovie, le piccole scuderie si giocano gli ultimi posti disponibili in griglia di partenza. È una Formula 1 diversa, quasi romantica, che non conosce podi o bottiglie di spumante, ma la fatica di meccanici e ingegneri che con un budget ridicolo tentano di ritagliarsi il proprio spazio nel circo della massima serie. Tra questi, sabato 30 aprile, a Imola, alle 13.35, abbandona i box per iniziare il suo giro veloce l'austriaco Roland Ratzenberger, al volante della Simtek motorizzata Ford. Molti di voi si chiederanno, chi è Roland Ratzenberger? Il pilota austriaco che si appresta a entrare in pista ad Imola nasce a Salisburgo, forse il 4 luglio 1960. È bene dire forse, perché in realtà Roland ha sempre raccontato ai colleghi di essere nato nel 1962. Il motivo? Dichiararsi più giovane per poter correre in Formula 1 qualche anno in più. Al di là dell'età però, è sicuro che già da giovanissimo, Ratzenberger possiede una grandissima passione per le corse automobilistiche, con le quali si cimenta a partire dai primi anni Ottanta, quando in Germania ottiene numerose vittorie in Formula Kart e in altre serie minori. I suoi idoli, due giovani piloti allora emergenti, il connazionale Gerhard Berger e soprattutto il grande Ayrton Senna. A cavallo tra gli 80 e i 90, per Roland Ratzenberger è un lungo peregrinare tra diverse competizioni automobilistiche, nell'attesa che qualche team di Formula 1 lo noti. Corre più volte la 24 ore di Le Mans, corre il campionato di Formula 3000 giapponese, torna in Europa, sempre in Formula 3. In questo giro del mondo all'inseguimento del proprio sogno, Roland incrocia più volte il circo della Formula 1. Conosce i suoi idoli, respira l'aria del mito. Parla con Ayrton, gli chiede consigli. Non mollare, gli dice il campionissimo brasiliano. Non arrenderti, mai. Così, nel 1994, per Roland il sogno diventa realtà, quando la Simtek gli offre il volante di una delle sue vetture. Dopo alcuni ottimi anni in Giappone e in altre categorie, sono molto felice di essere finalmente in Formula 1. Quando hai un'opportunità in Formula 1, devi coglierla subito, a prescindere dai risultati che potrai ottenere. È un passaggio chiave per la mia carriera e sono felicissimo di esserci arrivato. La Simtech è uno dei tanti piccoli team che tentano l'avventura della Formula 1 negli anni 90, sfidando le spietate leggi economiche del circo dei motori, rimanendone però inevitabilmente schiacciate. Nick Wirth e Paul Crooks sono i coraggiosi imprenditori e progettisti che riescono a iscrivere la Simtech al campionato di Formula 1, riuscendo a strappare qualche soldo a MTV in cambio del logo ben evidente sulla scocca. Come piloti vengono scelti due non giovanissimi ma pieni di stimoli e in cerca di successo e rivincite, David Brabham, figlio del leggendario John, e Roland Ratzenberger. Il primo gran premio della stagione è nel Brasile dell'idolo di Ratzenberger, Ayrton Senna. È un disastro per tutti e due. Roland, imbrigliato nei mille problemi meccanici della sua auto, non riesce nemmeno a qualificarsi. Il brasiliano rimane in testa per 21 giri prima di essere superato dalla Benetton di Michael Schumacher a una sosta di rifornimento, una delle discusse novità di quell'anno, per poi ritirarsi una decina di giri dopo. All'austriaco va meglio nella seconda gara, ad Aida, nel suo Giappone. Ratzenberger è undicesimo. La Simtech, se vuole evitare la bancarotta, deve cercare piazzamenti come questo. Ayrton, invece, esce nuovamente di scena prima del traguardo. Anzi, questa volta va fuori alla prima curva dopo un contatto con Mika Häkkinen. Schumacher trionfa per la seconda volta consecutiva. Roland Ratzenberger, quindi, colmo di speranze e aspettative, si prepara per il Gran Premio di San Marino, ad Imola, per una nuova dura lotta per entrare in griglia di partenza. Fino alle 13.35 di quel sabato 30 aprile. Non solo il weekend di Imola, ma tutto il 1994 è un anno particolare. Uno di quegli anni di svolta, in cui tra sinistri presagi e singolari premonizioni, i miti si dissolvono e si sciolgono in leggenda, come se nell'aria ci fosse qualcosa di oscuro ed inquietante. Oh, Qualche giorno prima di quel maledetto Gran Premio, Kurt Cobain viene trovato suicida in una serra sul lago Washington. Il leader dei Nirvana ha vissuto la sua breve vita alla velocità della luce, correndo come un bolide di Formula 1 verso la propria autodistruzione. Amava le corse, Cobain, e le auto. Si dice amasse anche Senna, nonostante la Formula 1 negli States non sia così popolare. Senna, così diverso da lui. Così diverso, lontanissimo da Cobain, è anche Roland Ratzenberger, che in comune con lui ha solo la velocità e il tragico destino. La sua Simtech, nel pieno del giro veloce della seconda sessione di prove valida per stabilire lo schieramento in griglia di partenza, esce dalla curva Tosa, la più lenta del circuito. A tutta velocità riparte verso la curva Villeneuve, dopo aver percorso il rettilineo più rapido dell'intero circuito. A questo punto però succede qualcosa. Dal retrotreno della vettura un pezzo si stacca e decolla verso il cielo. È l'alettone posteriore, senza il quale la macchina è letteralmente fuori controllo. A 314 km orari, la Simtech di Roland Ratzenberger tira dritto alla curva Villeneuve e si sfracella contro il muretto, che si trova al termine della distesa di sabbia. È un impatto tremendo. I resti della macchina rimbalzano in pista. Dalle riprese televisive si nota subito un particolare drammatico. La testa del pilota ciondola, spinta dall'inerzia dei testacoda della carcassa meccanica dell'auto. Quando l'auto si ferma, il casco si adagia sui bordi dell'abitacolo, inerme. I soccorsi arrivano subito tempestivi e circondano quel che resta della macchina. Sono attimi lunghissimi, interminabili. Le prove vengono sospese. In questi momenti concitati succede qualcosa di grande, qualcosa che segna la storia. Il re, Ayrton Senna, che ha seguito l'incidente dai monitor, pretende di essere portato sul luogo dell'incidente. Vuole capire, vuole rendersi conto. Da mesi denuncia la scarsa sicurezza delle nuove monoposto. Da mesi si batte perché ai piloti siano garantite norme a tutela della loro incolumità. Le telecamere lo inquadrano. Ayrton, il re, il più grande, ha il viso sconvolto per la morte dell'ultimo dei gregari, Roland Ratzenberger. L'austriaco si spegne pochi minuti dopo essere giunto all'ospedale maggiore di Bologna per le lesioni cerebrali riportate nell'impatto. Anche un duro come Gerhard Berger commenta sconvolto l'accaduto. È stata la prima volta che ho tremato dopo aver visto un incidente. Ero nel mio abitacolo e stavo guardando l'impatto su un monitor. E quando i soccorritori hanno cominciato ad estrarlo dalla monoposto, mi sono accorto subito che le sue condizioni erano drammatiche. Noi piloti dovremmo essere preparati a vedere situazioni come questa. Ma io conoscevo bene Roland, è stato straziante. 8 anni dopo l'incidente mortale a Helio De Angelis, a Le Castellet, la Formula 1 si trova nuovamente a fare i conti con la morte. Infuriano le polemiche. La federazione, nel 1994, ha cambiato le regole per cercare di riportare al centro della competizione l'abilità del pilota. Oltre all'introduzione del rifornimento in gara, che permette di partire con macchine più leggere e quindi più veloci, viene ridotto al minimo l'utilizzo di dispositivi elettronici sulle vetture. Aumentano però ancora prestazioni e velocità, determinando una contraddizione insanabile. I piloti protestano, ma la legge del business e dello spettacolo non conosce il buon senso. Senna, uno dei più battaglieri nel sottolineare le esigenze di sicurezza dei piloti, il giorno dopo non vorrebbe correre. Vorrebbe che il baraccone della Formula 1 si fermasse per riflettere. Ma anche in questo caso lo spettacolo deve continuare. Mille angosce e pensieri attraversano la mente del campione brasiliano nelle ore successive alla morte di Ratzenberger. Anche qui succede qualcosa che ha i contorni della leggenda. Il fuoriclasse di San Paolo decide di consegnare i propri timori più intimi e le proprie fragilità a colui che la storia dello sport ci ha tramandato come il suo più grande nemico. Un nemico con cui, però, già da qualche mese, è iniziata una sorprendente amicizia. Scopriamo chi è. In tanti anni di corse insieme, l'uno contro l'altro, non ci eravamo praticamente mai telefonati. Dopo il mio ritiro, alla fine del 93, Ayrton cominciò a chiamarmi spesso a casa. Era molto agitato per la sicurezza in pista e mi aveva chiesto 2 o 3 volte di creare insieme a lui un sindacato di piloti per la tutela della sicurezza. Una settimana prima di quel gran premio maledetto, siamo stati al telefono ore. Mi supplicava anche di tornare a correre. Diceva: «Io non posso essere Ayrton Senna se in pista non c'è più Alain Prost». La rivalità tra Senna e Prost è una delle più belle e straordinarie di tutta la storia dell'automobilismo. Iniziata nel 1988 con i 2 compagni di squadra sulla McLaren, fatta di 3 mondiali a testa, colpi proibiti, sorpassi da antologia e frecciate velenose, i 2 campioni hanno sempre dimostrato un rispetto reciproco straordinario, sfociato poi in uno spettacolare rapporto d'amicizia. Prost nel 1993 vince il suo ultimo mondiale sulla Williams e a fine stagione si ritira. Senna prende il suo posto sulla monoposto campione del mondo. Il francese diventa commentatore per una TV e si trova proprio ad Imola durante il Gran Premio di San Marino. Lì ha modo di incontrare di persona il pilota brasiliano. Sabato era morto Roland Ratzenberger. Ayrton lo conosceva pochissimo, ma era davvero sconvolto. Poche ore prima della partenza, quando di solito i piloti si isolano per concentrarsi, Ayrton mi venne a cercare. Ero in sala riunioni con altre persone della televisione francese. Entrò, tra lo stupore e l'incredulità generale, e si sedette in silenzio accanto a me. La riunione riprese e lui ascoltò in silenzio una scena surreale. Sembrava che semplicemente volesse avermi vicino in quel momento. Era la prima volta che lo vedevo così fragile. Finita la riunione, se ne andò. Ma io lo raggiunsi ai box e mi colpì moltissimo vedere quanto fosse felice che io fossi andato lì. Fu l'ultima volta che parlai con lui. Mentre Prost, toccato dall'improvvisa vicinanza emotiva con il vecchio rivale, si reca in cabina per commentare il Gran Premio, mentre all'ospedale maggiore la salma di Roland Ratzenberger viene pianta dai suoi cari, mentre Rubens Barrichello, ancora tramortito dal tremendo urto del venerdì, guarda la gara dal suo salotto di San Paolo, alle ore 14 del 1 maggio 1994, il grande Ayrton Senna è pronto a scattare dalla sua 65esima pole position. A destini incrociati è il 1 maggio del 1994, il giorno del Gran Premio di San Marino. Looking out the door, I see the rain fall upon the funeral mourners. Parading in a wake of sad relations as their shoes fill up with water. Maybe I'm too young to keep good love from going wrong. But tonight, you're on my mind, so you never know. Broken down and hungry for your love, but no way to feed it. Where are you tonight, child? You know how much I need it. Too young to hold on, and too old to just break free and run. Sometimes sweet return. bed is made, the open window lets the rain in. Burning in the corner is the only one that dreams he had you with him. My body turns and yearns for a sleep that Destini incrociati e a Imola, il 1 maggio 1994, autodromo Enzo e Dino Ferrari. Sulla griglia di partenza le vetture sono schierate e pronte a partire. Davanti a tutti, Ayrton Senna, il più grande di sempre. Nell'aria però c'è un clima pesante. Il giorno prima, durante le qualifiche, è morto Roland Ratzenberger, pilota austriaco che lottava nelle retrovie e che, proprio idolatrando Senna, aveva tentato l'avventura in Formula 1. E proprio il pilota brasiliano sembra il più scosso in griglia di partenza. Proprio lui che forse avrebbe preferito cancellare quella gara dopo il tragico evento. Senna ha sempre avuto una visione molto umana e democratica della Formula 1, dello sport, della vita. Grande agonista, pronto a tutto pur di vincere, ha sempre avuto grande attenzione per i diritti e la sicurezza di tutti i piloti. Nel 1992, durante le qualifiche del Gran Premio del Belgio, il pilota francese Rico Ma incappa in un terribile incidente. Dopo essersi schiantato contro il guardrail, Comà, a bordo della sua auto, carambola in mezzo alla pista e perde conoscenza. Il piede rimane pigiato sull'acceleratore, la macchina accesa e immobile. Un rischio enorme. Un'esplosione potrebbe essere questione di secondi. Mentre le altre vetture riescono a evitarlo e gli sfrecciano accanto, Senna ferma la sua McLaren qualche metro più avanti, scende di corsa, sfidando il pericolo delle altre auto e si precipita verso l'abitacolo di Comà, spegnendogli il motore. Gli raddrizza poi la testa in posizione più naturale e meno pericolosa, attendendo con lui i soccorsi. Gli salva la vita e dimostra al mondo dello sport cosa voglia dire essere davvero un vincente. Un gesto che anche lo stesso Eric Comà non ha dimenticato. Ho rivisto numerose volte le immagini di quel gesto incredibile in televisione. La prima preoccupazione di Ayrton non è stata quella di estrarmi dall'abitacolo, ma di spegnermi la macchina. Ha rischiato molto e mi ha salvato la vita. Parlando di destini che si incrociano, Enrico Ma, che a Senna deve la vita, avrà modo di incrociare di nuovo la propria sorte con quella del pilota brasiliano, proprio nel pomeriggio di quel 1 maggio 1994. Ma la vita ha pensato a un epilogo diverso, che vi sveleremo tra qualche minuto. Chi è realmente Ayrton Senna da Silva? Il campionissimo brasiliano, vincente e predestinato, nasce nel 1960 da genitori benestanti e comincia a correre con i kart nel 1973 e vince subito il campionato juniores brasiliano. Sui kart rimane da assoluto dominatore fino al 1981, sfiorando anche due titoli mondiali. Trasferitosi in Europa, domina nelle serie minori britanniche, dalla Formula Ford fino alla Formula 3. Il salto in Formula 1 avviene nel 1984, sulla Toleman Hart, una piccola scuderia di secondo piano. Con il suo talento, Senna conquista tre podi e chiude il mondiale al nono posto, un risultato incredibile. Nel 1985 passa alla Lotus, dove rimane altri tre anni. Arrivano 16 pole position, 6 vittorie, 6 giri veloci, 2 quarti e un terzo posto nel mondiale. Senna è già il più forte sulla pioggia e il più veloce in prova. Il suo modo di correre è un mix di genio e sregolatezza, di calcolo ed eccesso. Il risultato è emozione pura, un brivido che si sprigiona dalla personalità di un uomo abituato a vincere e a vivere le emozioni nella propria pancia, come lui stesso più volte ha dichiarato. We are made of emotions. Siamo fatti di emozioni. Tutti noi cerchiamo le emozioni. Ciò che ci differenzia è la strada che percorriamo per provarle. Ci sono diversi modi. Uno degli elementi peculiari della Formula 1 è che tu sei perfettamente consapevole di essere sempre esposto al pericolo. Pericolo di farti male e pericolo di morire. Quando nel 1988 Ayrton passa alla McLaren, può finalmente centrare il titolo mondiale, dando vita a una delle più straordinarie rivalità della storia dello sport, quella con il francese Alain Prost, per 2 anni suo compagno di squadra. I due lottano senza esclusione di colpi e dividono il mondo dei tifosi della Formula 1. I due sono l'uno opposto dell'altro. Prost è soprannominato il professore, freddo, calcolatore, sempre misurato. Ayrton è il pilota che vola sulla pioggia, il mago delle pole position, delle imprese impossibili. Una differenza che anche lo stesso Prost, oggi, ricorda con emozione. Ricordo il nostro primo Gran Premio di Monte Carlo da compagni di squadra. Ricordo le qualifiche. Non era andato molto bene fino a quel momento. Poi, al suo ultimo giro disponibile, a pochi secondi dalla fine, fa un tempo incredibile e mi strappa la pole di pochissimo. Nella conferenza stampa disse che durante quel giro era come uscito dalla macchina, aveva guardato la macchina dall'alto, aveva capito come dovesse guidare e quindi era riuscito a farlo alla perfezione. Per me fu doppiamente difficile da accettare, perché ebbi l'impressione che un po' tutti aspettassero un personaggio come lui. Era diverso da me, faceva sognare. Ero diventato improvvisamente troppo noioso. Nel 1989 è però il francese a superarlo sul filo di lana, dopo un discusso incidente a Suzuka. Mentre Prost è in testa, il brasiliano, nelle retrovie per un problema meccanico, si lancia in una folle rimonta sotto la pioggia. A pochi giri dal termine, tenta il sorpasso, ma con una manovra dubbia il francese lo sperona. Senna riparte grazie all'aiuto di un commissario di pista. Vincerà, ma sarà squalificato. Così nel 1990, con Prost alla Ferrari, la storia si inverte. Ed è Senna a trionfare grazie a una controversa collisione tra i due, sempre sul circuito giapponese. A Ayrton tocca Prost alla prima curva. I due escono. Senna, un po' provocatoriamente, commenterà l'episodio. Un anno gli incidenti capitano a pochi giri dalla fine. L'anno dopo, alla prima curva. Così si decidono i mondiali. Così è lo sport. Per Senna arriva un terzo titolo, l'ultimo, nel 1991. Nel 92 e nel 93 la sua McLaren è inferiore alla Williams, che si aggiudica il titolo prima con Nigel Mansell e poi con il suo grande rivale, Alain Prost. Nel 1994 Prost si ritira. Senna prende il suo posto alla Williams. Il ritiro del rivale è un evento tremendo per il pilota brasiliano, come conferma la sorella Viviane, grande confidente di Ayrton. Ayrton e Alain avevano bisogno l'uno dell'altro. Per portare al massimo il loro livello, avevano bisogno della competizione con un avversario che li spingesse a farlo. Penso che Ayrton non sarebbe mai stato il campione che è stato senza Alain Prost e che anche Prost non avrebbe mai avuto la piena consacrazione senza un rivale come Ayrton. Una volta, però, un giornalista chiese a mio fratello in un'intervista, a proposito di Prost, se potesse essere considerato un suo nemico. Rispose una delle cose più belle che gli abbia mai sentito dire. La vita è troppo corta per avere dei nemici. Ora questa frase riesce ad emozionarmi ancora di più. Il Mondiale del 94, il primo senza il grande rivale, parte in salita. Senna non riesce a concludere le prime due gare, vinte invece dall'astro nascente Michael Schumacher, al volante della Benetton del team di Flavio Briatore. Senna non ha buone sensazioni rispetto a quel mondiale, fino a quel weekend maledetto. Non era molto contento della Williams. Secondo lui, Schumacher e la Benetton baravano, continuando ad utilizzare dispositivi elettronici, benché fossero stati banditi quell'anno. Le immagini di Ayrton Senna, in griglia di partenza del terzo Gran Premio della stagione, sembrano raccontare un uomo turbato, preoccupato. Un uomo in cui forse si è spezzato qualcosa di importante. La morte di Ratzenberger l'ha segnato nel profondo. Forse gli tornano alla mente le parole dette in un'intervista qualche settimana prima. Noi piloti di Formula 1 possiamo perdere la vita in una frazione di secondo. Questo pensiero ti fa realizzare che non sei nessuno. Improvvisamente non sei nessuno perché la tua vita può finire in qualsiasi momento. Diventa parte della tua vita. Dobbiamo affrontare questo pensiero in maniera fredda e professionale. Viceversa, sarebbe meglio abbandonare. Quando capirò di non riuscire più a sopportare questo peso, abbandonerò. Semplicemente abbandonerò. Quando finalmente scatta il verde e parte il Gran Premio, alle 14 in punto, si comprende che c'è qualcosa nell'aria, in quel maledetto fine settimana, dal sapore tragico. A destini incrociati è il 1 maggio 1994. Un campione sta per scomparire. Nasce una leggenda. Destini incrociati. Siamo a Imola, il 1 maggio 1994. Gran Premio di San Marino. Dopo una sessione di prove tragica, in cui ha perso la vita il pilota austriaco Roland Ratzenberger, la gara, in un clima surreale, sta per prendere il via. I piloti sono schierati sulla griglia di partenza, dopo il giro di riscaldamento. Davanti a tutti, per la 65esima volta in carriera, il più grande pilota del mondo, uno dei più grandi di sempre, Ayrton Senna, è uno dei più sconvolti dal tragico epilogo di Ratzenberger. Alle 14.01 scatta il verde, e il weekend maledetto continua a produrre feriti e a lanciare segnali inquietanti. La macchina del finlandese J.J. Lehto, seconda guida della Benetton, si blocca sullo schieramento e viene travolta dalla Lotus di Pedro Lamy. L'impatto è violentissimo, ma senza conseguenze per i due piloti. I pezzi dell'auto però schizzano in tribuna e colpiscono gli spettatori. Nulla di grave, ma si arriva a 100 tra contusi e feriti. entra la safety car e rimane per 5 giri. All'inizio del sesto riprende la gara. Ayrton precede Schumacher e la Ferrari di Berger. Al settimo succede l'impensabile. Alle 14.17, alla curva del tamburello, il piantone dello sterzo della Williams di Senna, allungato con una saldatura la sera prima su richiesta del pilota per migliorare la problematica abitabilità del cockpit, cede. A quasi 300 km orari, la monoposto diventa una scheggia impazzita, Senna un passeggero passivo. Può solo frenare quando la sua auto tira dritto verso il muro. Riesce miracolosamente a decelerare fino a 217 km orari. A questa velocità si schianta contro la barriera. Attenzione, Senna è uscito. Incredibile, incredibile. In piena velocità. Incidente violentissimo, pezzi che volano ancora. Bandiere gialle. Posizione di notevole pericolo. Uscita molto violenta in un punto criticissimo e a questo punto si scateneranno nuovamente le critiche, ma la cosa che mi preoccupa di più è che vedo che il pilota non si muove per il momento. Vediamo. L'urto è tremendo, ma avviene con un angolo tale per cui il pilota riesce a non riportare lesioni o fratture. La sorte però quel giorno ha scritto un copione cui non vuole rinunciare. La gomma anteriore destra, staccandosi nell'impatto, rimbalza violentemente contro il casco del pilota, provocando una frattura gravissima alla base del cranio. Non solo, il braccio di una sospensione perfora il casco giallo del fuoriclasse. La carcassa dell'auto si blocca a pochi metri dalla pista. La testa di Senna fa un lieve movimento che fa sperare tutti i tifosi. Adesso scenderà dall'abitacolo, tutti si dicono. Ora scenderà, saluterà il pubblico. Ma il brasiliano, purtroppo, è immobile. Arrivano i soccorsi, la gara viene sospesa. Le immagini che seguono sono tra le più drammatiche di questo sport. Senna disteso sull'asfalto, i medici che tentano di rianimarlo, enormi chiazze di sangue intorno a lui. In quei secondi concitati si rischia una nuova strage. Una delle macchine in corsa, rientrata ai box per degli aggiustamenti durante l'interruzione, riceve non si sa come un segnale radio completamente sbagliato. Rientra in pista a tutta velocità e si getta nel tamburello verso il tratto di pista occupato dall'elicottero e dai soccorritori. Si ferma appena in tempo. Al volante di quella macchina, il destino fa sì che ci sia Enrico Ma, l'uomo a cui Ayrton ha salvato la vita 2 anni prima. Comà si avvicina alla zona dell'incidente e al corpo di Senna. Vede la scena spaventosa delle chiazze di sangue e dell'intervento medico sul campionissimo brasiliano. Si rende conto che, a differenza di quanto avesse fatto Senna per lui, non può in nessun modo aiutare il pilota brasiliano. Sconvolto, abbandona la macchina in pista e lascia il circuito. Ero sconvolto. Sono letteralmente scappato dal circuito. Quello che era successo il giorno prima a Ratzenberger e quella domenica al mio amico Ayrton, il fatto che il Gran Premio poi riprese come se niente fosse, come se il più grande pilota di sempre non fosse sul punto di morire, mi convinse che questo non era più il mio mondo. Mentre la gara, tra fiumi di ipocrisia, riprende, un elicottero trasporta Senna all'ospedale maggiore di Bologna, lo stesso che aveva ospitato gli ultimi minuti di vita di Roland Ratzenberger e che nella camera ardente ospita ancora il corpo senza vita del pilota austriaco. Il gregario e il suo idolo, il campione e il portatore d'acqua, sono uguali davanti alla morte. La morte che si prende Senna alle 18 di quella domenica pomeriggio. Lo strappa alla vita, lo consegna al mito. Senna, Kurt Cobain. Non sono gli unici lutti importanti di quel nerissimo 1994. Parlando di leggende tutte italiane, quell'anno ci saluta Gianmaria Volonté, uno dei più grandi attori degli ultimi decenni, un personaggio leggendario, unico. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. Mentre il mondo è funestato dai conflitti, terribili anche se poco televisivi, di Ruanda e Somalia, l'Italia vive un anno controverso. La nascita e la fine del primo governo Berlusconi, la morte di Ilaria Alpi a Mogadiscio, la condanna di Craxi per la tangente del Banco Ambrosiano, l'affondamento del transatlantico Achille Lauro. Un'Italia scossa dai cambiamenti, smarrita, incerta sul proprio futuro, fa da sfondo alla tragedia di Ayrton Senna, che è anche e soprattutto la tragedia di una nazione intera, di un popolo che perde un idolo, un modello, la personificazione di tutte le speranze di riscatto di un paese già profondamente ferito. Il grande cantatore Tocchigno consegna alla stampa parole che scavano in questa ferita. Senza Senna siamo più vuoti, più soli. Lui voleva sempre vincere, vincere e basta. Non gli interessava altro. Dava una sensazione di sicurezza, di invincibilità. Basta ricordare come gli piaceva correre sotto la pioggia, mentre Prost invece ne faceva a meno. Ah, lo so, per voi non aveva nulla di brasiliano. Invece lo era dalla testa ai piedi. E in un paese come il nostro, dove non capitano mai le cose giuste, ma solo quelle sbagliate, e dove la frustrazione è grandissima perché i problemi non si risolvono, ma casomai si rimandano, si frazionano, si nascondono, lui era l'opposto. Era freddo prima e emozionante durante. Era tutto quello che l'insoddisfazione e la frustrazione non sono. Senna per noi era il figlio, il fratello, il padre. Non era lo straccione illuminato dal genio. Ci dava l'idea di uno che non poteva, anzi che non sapeva sbagliare. E solo così ci placavamo noi, sempre pronti a metterci nel suo abitacolo, sempre costretti nel nostro paese a non finire primi da nessuna parte. Ayrton Senna non c'è più. E dalle parole di Toquinho, o riguardando le immagini dei suoi funerali a San Paolo, si ha fortissima l'impressione di un insulto della sorte ad un uomo e un paese che non meritavano, certo, tutto questo. Ho deciso subito di andare in Brasile, al suo funerale. Non sapevo se la sua famiglia e i suoi fans mi avrebbero voluto vedere. Naturalmente non volevo offendere nessuno, volevo a tutti i costi essere lì. La morte di Ayrton è stata la fine della mia storia in Formula 1. Senna era un pilota dalla personalità fortissima. Non solo. Era costantemente in polemica con la Federazione Internazionale, spesso tacciata di disinteressarsi della sicurezza dei piloti, a tutto ed esclusivo vantaggio delle esigenze di business e spettacolo. Al suo funerale pesa quindi come un macigno l'assenza del presidente della federazione, Max Mosley. Mosley, interpellato a proposito, dà però un'altra giustificazione della sua assenza. Roland è stato dimenticato. Così io sono andato al suo funerale, perché tutti sarebbero andati a quello di Senna. Mi sembrava giusto che qualcuno andasse anche al suo. Tra le polemiche, le lacrime e il dolore, si chiude il weekend più nero della storia dell'automobilismo. Si dissolvono i destini incrociati del più grande di sempre, Ayrton Senna, e del perfetto signor nessuno, Roland Ratzenberger. Tra il 30 aprile e il 1 maggio 1994, entrambi perdono la vita a Imola durante il Gran Premio di San Marino. La morte non fa distinzioni, non si ferma davanti alla leggenda, non risparmia i gregari. Senza distinzioni, quel giorno se li porta via, tutti e due. Quel weekend tragico ci ha consegnato una Formula 1 forse più sicura, certamente meno nobile, meno romantica, meno umana. Dal grande Michael Schumacher a Fernando Alonso, a Lewis Hamilton, i nuovi grandissimi campioni sembrano più simili a freddi e cinici calcolatori che a uomini fatti di passioni, carne e sangue, come quelli che si sono estinti con la generazione di Senna e Prost. Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa. Anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi. Per sponsorizzare in realtà che cosa? Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.